Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo 25. A Mompracem. Punito il legno nemico, il quale aveva dovuto fermarsi per riparare i gravissimi danni causatigli dalla granata così destramente lanciata da Sandokan, il prao, coperto dalle sue immense vele, si era subito allontanato con quella velocità che è propria di quel genere di legni i quali sfidano i più celebri clipper della Marina dei Due Mondi. Marianna, affranta da tante emozioni, si era nuovamente ritirata nella graziosa cabina e anche buona parte dell'equipaggio aveva lasciata la coperta, non essendo il regno minacciato da alcun pericolo, almeno per il momento. Yanez e Sandokan però non avevano lasciato il ponte. Seduti sul coronamento di poppa, discorrevano fra di loro, guardando di quando in quando verso l'est, dove scorgevano ancora un sottile pennacchio di fumo. Quel piroscafo avrà molto da fare a trascinarsi fino a Vittoria, diceva Yanez, concentrato così gravemente da rendergli impossibile ogni tentativo di inseguimento. Credi tu che ce l'abbia mandato dietro Lord Gillonk? No, Yanez, rispose Sandokan, al Lord sarebbe mancato il tempo di accorrere a Vittoria e di avvertire il governatore di ciò che era accaduto. Quel legno però doveva cercarci forse da qualche giorno. Ormai nell'isola si doveva sapere che noi eravamo sbarcati. Credi tu che il Lord ci lascerà tranquilli? Dubito molto, Yanez. Io conosco quell'uomo e so quanto è tenace e vendicativo. Noi dobbiamo aspettarci, e presto, un formidabile assalto. Che venga ad assalirci nella nostra isola. Ne sono certo, Yanez. Lord James gode molta influenza e per di più so che è ricchissimo. A lui sarà quindi facile noleggiare tutti i legni che sono disponibili, arruolare marinai ed avere l'aiuto del governatore. Fra breve noi vedremo comparire dinanzi a Mompracem una flottiglia, lo vedrai. E noi cosa faremo? Daremo la nostra ultima battaglia. L'ultima? Perché dici così, Sandokan? Perché Mompracem perderà poi i suoi capi, disse la tigre della Malesia con un sospiro. La mia carriera sta per finire, Yanez. Questo mare, teatro delle mie imprese, non vedrà più i praos della tigre solcare le sue onde. Ah, Sandokan, era scritto. L'amore della fanciulla dai capelli d'oro doveva spegnere il pirata di Mompracem. È triste, immensamente triste, mio buon Yanez, dover dare un addio e per sempre a questi luoghi e dover perdere la fama e la potenza. Eppure dovrò rassegnarmi. Non più battaglie, non più tuonare di artiglierie, non più fumanti carcasse inabissantisi nei baratri di questo mare, non più tremendi abbordaggi. Ah, sento il mio cuore sanguinare, Yanez, pensando che la tigre morrà per sempre e che questo mare e la mia stessa isola diverranno d'altri. E i nostri uomini? Essi seguiranno l'esempio del loro capo, se lo vorranno, e daranno anche loro un addio a Mompracem, disse Sandokan con voce triste. E la nostra isola, dopo tanto splendore, dovrà rimanere deserta come lo era prima della tua comparsa. Lo diverrà. Povera Mompracem, esclamò Yanez con profondo rammarico. Io che l'amavo come fosse già la mia patria, la mia terra natia, e io credi che non l'amassi? Credi tu che non mi si stringa il cuore pensando che forse non la rivedrò più mai e che forse più non solcherò coi miei praos questo mare che io chiamavo mio? Se io potessi piangere, vedresti quante lacrime bagnerebbero le mie gote. Destino, rassegniamoci, Yanez, e non pensiamo più al passato. Eppure non so rassegnarmi, Sandokan. Veder sparire d'un sol colpo la nostra potenza, che ci era costata immensi sacrifici, tremende battaglie e fiumi di sangue, è la fatalità che così vuole, disse Sandokan con voce sorda. O meglio, l'amore della fanciulla dai capelli d'oro, disse Yanez. Senza quella donna il ruggito della tigre della Malesia giungerebbe ancora possente fino all'Abuan e farebbe tremare per lunghi anni ancora gli inglesi ed anche il sultano di Varaoni. È vero, amico mio, disse Sandokan, è la fanciulla che ha dato il colpo mortale a Mompracem. Se non l'avessi mai veduta, chissà per quanti anni ancora le nostre trionfanti bandiere scorrazzerebbero a questo mare, ma ormai è troppo tardi per rompere le catene che ha gettato su di me. Se fosse stata un'altra donna, pensando alle rovine della nostra potenza, l'avrei sfuggita o ricondotta all'Abuan. Ma sento che spezzerei per sempre la mia esistenza se non dovessi più mai rivederla. La passione che mi arde in petto è troppo gigante per soffocarla. Ah, se ella lo volesse, se ella non avesse in orrore il nostro mestiere, non avesse paura del sangue e del rombo delle artiglierie, quanto farei brillare la resta di mondo accanto a lei. Un trono potrei darglielo qui o sulle coste del Borneo. Ed invece, orsù, si compie il nostro destino. Andremo a dare a Monpracem l'ultima battaglia, poi lasceremo l'isola e faremo vela. Per dove? Sandokan. Lo ignoro, Yanez. Andremo dove ella vorrà. Molto lontano da questi mari e da queste terre, tanto anzi da non udirne più mai parlare. Se dovessi rimanere vicino, non so se saprei resistere a lungo alla tentazione di tornare a Monpracem. Ebbene, sia. Andiamo a impegnare l'ultima pugna e poi si vada pur lontani, disse Yanez con accento rassegnato. La lotta sarà però tremenda, Sandokan. Il Lord ci darà un assalto disperato. Troverà la tana della tigre inespugnabile. Nessuno finora è stato tanto audace da violare le coste della mia isola e non le toccherà nemmeno lui. Aspetta che noi siamo giunti e vedrai quali lavori noi intraprenderemo per non farci schiacciare dalla flottiglia che manderà contro di noi. Renderemo il villaggio talmente forte da poter resistere al più terribile bombardamento. La tigre non è ancora domata e ruggirà forte ancora e getterà lo sgomento nelle file nemiche. Alla mezzanotte, Yanez, coi capi e tutte le bande, saliva alla gran capanna dove lo aspettava Sandokan. Una sala ampia tanto da contenere 200 e più persone era stata arredata con lusso insolito. Grandi lampade dorate versavano torrenti di luce facendo scintillare l'oro e l'argento degli arazzi e dei tappeti e la madreperla che adornava i ricchi mobili di stile indiano. Sandokan aveva indossato il costume di gala, di raso, rosso, e il turbante verde adorno di un pennacchio tempestato di brillanti. Portava alla cintura i due kris, insegna di gran capo e una splendida scimitarra con la guaina d'argento e l'impugnatura d'oro. Marianna invece indossava un vestito di velluto nero, trapunto in argento, frutto di chissà mai quale saccheggio e che lasciava allo scoperto le braccia e le spalle sulle quali cadevano come pioggia d'oro i suoi stupendi capelli biondi. Ricchi braccialetti adorni di perle di inestimabile valore e un diadema di brillanti che mandavano sprazzi di luce la rendevano più bella, più affascinante. I pirati nel vederla non avevano potuto trattenere un grido di ammirazione dinanzi a quella stupenda e si guardavano come una divinità. Amici miei, fedeli tigrotti, disse Sandokan, chiamando intorno a sé la formidabile banda, qui vi ho chiamati per decidere la sorte della mia Monpracem. Voi mi avete veduto lottare per tanti anni senza posa e senza pietà contro quella razza esecrata che assassinò la mia famiglia, che mi rapì una patria, che dai gradini di un trono mi precipitò a tradimento nella polvere e che mira ora alla distruzione della razza malese. Voi mi avete veduto lottare come una tigre, respingere sempre gli invasori che minacciavano la nostra selvaggia isola, ma ora basta. Il destino vuole che mi arresti e così sia. Ormai sento che la mia missione vendicatrice è finita. Sento di non saper più ruggire né combattere come un tempo. Sento d'aver bisogno di riposo. Combatterò ancora un'ultima battaglia col nemico che verrà forse domani ad assalirci. Poi darò un addio a Monpracem e andrò lontano a vivere con questa donna che amo e che diverrà mia moglie. Vorrete voi continuare le imprese della tigre? Vi lascio i miei legni e i miei cannoni. E se preferite seguirmi nella mia nuova patria, vi considererò ancora come miei figli. I pirati, che parevano atterriti da quella rivelazione inaspettata, non risposero, ma si videro quei volti anneriti dalla polvere dei cannoni e dai venti del mare bagnarsi di lacrime. «Piangete!» esclamò Sandokan con voce alterata dalla commozione. «Ah sì, vi comprendo, miei prodi, ma credete che anch'io non soffra all'idea di non rivedere forse più mai la mia isola, il mio mare, di perdere la mia potenza, di rientrare nell'oscurità dopo aver tanto brillato, di avere conquistato tanta fama, sia pure terribile, sinistra? È la fatalità che così vuole, e curvò il capo, e poi ora non appartengo che alla perla di Labuan. Capitano, mio capitano, esclamò Girobatol, che piangeva come un fanciullo. Rimanete ancora fra noi, non abbandonate la nostra isola. Noi la difenderemo contro tutti, noi leveremo uomini, noi, se lo vorrete, distruggeremo Labuan, Varauni e Sarawak, onde più nessuno osi minacciare la felicità della perla di Labuan. Milady, esclamò Paranoa, rimanete anche voi. Noi vi difenderemo contro tutti, noi faremo coi nostri corpi scudo contro i colpi del nemico e, se vorrete, conquisteremo un regno per darvi un trono. Fra tutti i pirati vi fu un'esplosione di vero delirio. I più giovani piangevano. Rimanete, milady, rimanete a Monpracem, gridavano tutti, affollandosi dinanzi alla giovanetta. Questa ad un tratto si avanzò verso le bande, reclamando con un gesto il silenzio. Sandokan disse con un accento che non tremava: «Se ti dicessi rinuncia alle tue vendette e alla tua pirateria, e se io spezzassi per sempre il debole vincolo che mi lega ai miei compatriotti e adottassi per patria quest'isola, accetteresti tu? Tu, Marianna, rimanere sulla mia isola? Lo vuoi? Sì. E io ti giuro che non prenderò le armi che in difesa della mia terra. Monpracem sia adunque la mia patria, e qui rimango». 100 armi si innalzarono e si incrociarono sul petto della giovanetta, che era caduta fra le braccia di Sandokan, mentre i pirati ad una voce gridarono: «Viva la regina di Monpracem! Guai a chi la tocca!» Capitolo 27. Il bombardamento di Monpracem. All'indomani pareva che il delirio si fosse impadronito dei pirati di Monpracem. Non erano uomini, ma titani che lavoravano con energia sovrumana a fortificare la loro isola, che ormai più non volevano abbandonare, dacché la perla di Labuan aveva giurato di rimanervi. S'affaccendavano attorno alle batterie, rizzavano nuove trincee, battevano furiosamente le rupi per staccare massi che dovevano rinforzare i ridotti, empivano i gabboni che disponevano dinanzi ai cannoni, abbattevano alberi per rizzare nuove palizzate, costruivano nuovi bastioni che munivano con le artiglierie elevate ai praos, scavavano trabocchetti, preparavano mine, empivano i fossati di ammassi di spine e piantavano nel fondo punte di ferro avvelenate col succo dell'upas, fondevano palle, rinforzavano le polveriere e affilavano le armi. La regina di Monpracem, bella, affascinante, scintillante d'oro e di perle, era là ad incoraggiarli con la sua voce e coi suoi sorrisi. Sandokan era alla testa di tutti e lavorava con una attività febbrile che pareva una vera pazzia. Correva dove era necessario il suo intervento, aiutava i suoi uomini a porre le opere di difesa su tutti i punti, validamente aiutato da Yanez, che pareva avesse perduta la sua solita calma. La cannoniera, che navigava sempre in vista dell'isola spiando i lavori, bastava a stimolare i pirati, convinti ormai che attendesse una potente squadra per bombardare la rocca della Tigre. Verso il mezzodì giunsero al villaggio parecchi pirati che erano partiti la sera innanzi con 3 praos, e le notizie che recarono non erano inquietanti. Una cannoniera che pareva spagnuola si era mostrata al mattino diretta verso l'est, ma sulle coste occidentali nessun nemico era apparso. «Temo un grande attacco», disse Sandokan a Yanez. «Gli inglesi non verranno soli ad assalirmi, lo vedrai. Che abbiano fatto lega con gli spagnuoli o con gli olandesi. Sì, Yanez, il mio cuore mi dice che non mi inganno. Troveranno pane per i loro denti. Il nostro villaggio è diventato inespugnabile». «Forse, Yanez, ma non disperiamo. Ad ogni modo, in caso di sconfitta, i prao sono pronti a prendere il largo». Si rimisero al lavoro mentre alcuni pirati invadevano i villaggi indigeni disseminati nell'interno dell'isola per reclutare gli uomini più validi. Alla sera il villaggio era pronto a sostenere la lotta e presentava una cinta di fortificazioni veramente imponente. 3 linee di bastioni, gli uni robusti più degli altri, coprivano interamente il villaggio estendendosi in forma di semicerchio. Palizzate e fossati ampi rendevano la scalata di quei fortini quasi impossibile. 46 cannoni del calibro di 12, di 18 e alcuni da 24 collocati sul gran ridotto centrale, una mezza dozzina di mortai e 60 spingarde difendevano la piazza, pronti a vomitare palle, granate e mitraglie sulle navi nemiche. Durante la notte Sandokan fece disalberare e svuotare di tutto ciò che contenevano i praus, quindi li affondò nella baia onde il nemico non se ne impadronisse o li sfracellasse e mandò parecchi canotti al largo onde sorvegliare le mosse della cannoniera, ma questa non si mosse. All'alba Sandokan, Marianna e Janez, che da alcune ore dormivano nella grande capanna, furono bruscamente svegliati da acuti clamori. «Il nemico! Il nemico!» si gridava nel villaggio. Si precipitarono fuori dalla capanna e si spinsero sull'orlo della gigantesca rupe. Il nemico era là, a 6 o 7 miglia dall'isola, e si avanzava lentamente in ordine di battaglia. Nel vederlo una profonda ruga solcò la fronte di Sandokan. Si oscurava. «Ma è una vera flotta», mormorò questi. «Dove quei cani d'inglesi hanno raccolto tante forze?» «È una lega che quelli di Labuan mandano contro di noi», disse Sandokan. «Guarda, vi sono legni inglesi, olandesi, spagnoli e perfino dei prahos di quella canaglia del sultano di Varauni, pirata quando vuole e che è geloso della mia potenza». Ed era proprio vero. La squadra assalitrice si componeva di 3 incrociatori di grande tonnellaggio, portanti bandiera inglese, di 2 corvette olandesi potentemente armate, di 4 cannoniere e d'un cutter spagnuolo e di 8 prahos del sultano di Varauni. Potevano disporre tutti insieme di 150 o 160 cannoni e di 1500 uomini. «Sono molti per Giove», esclamò Janez, «ma noi siamo valorosi e la nostra rocca è forte». «Vincerai, Sandokan?» chiese Marianna con voce che tremava. «Speriamo, amor mio», rispose il pirata. «I miei uomini sono audaci. Ho paura, Sandokan, di che cosa? Che una palla ti uccida. Il mio buon genio, che per tanti anni mi protesse, non mi abbandonerà oggi, che pugno per te. Vieni, Marianna, che i minuti sono preziosi». Scesero la gradinata e si recarono al villaggio dove i pirati avevano già preso posto dietro ai cannoni pronti a impegnare con gran coraggio la titanica lotta. 200 indigeni, uomini che sapevano, se non resistere ad un urto, almeno trarre archibugiate e anche cannonate, manovra che avevano appreso con facilità sotto i loro maestri, erano già giunti e si erano disposti nei punti assegnati dai capi della pirateria. «Buono», disse Janez, «saremo in 350 a sostenere l'urto». Sandokan chiamò 6 dei più valorosi uomini e affidò loro Marianna, onde la internassero nei boschi per non esporla al pericolo. «Va, mia diletta», disse egli, stringendosela al cuore, «se io vinco tu sarai ancora la regina di Monprachem, e se la fatalità mi farà perdere, spiccheremo il volo e andremo a cercare la felicità su altre terre». «Ah, Sandokan, ho paura!» esclamò la giovanetta piangendo. «Tornerò da te, non temere, mia diletta. Le palle risparmieranno la tigre della Malesia, anche in questa pugna». La baciò in fronte, poi fuggì verso i bastioni tuonando. «Su, tigrotti, che la tigre è con voi! Il nemico è forte, ma noi siamo ancora le tigri della selvaggia Monprachem!» Un urlo solo vi rispose. «Viva Sandokan, viva la nostra regina!» La flotta nemica si arrestava dall'isola e parecchie imbarcazioni si staccavano dalle navi conducendo qua e là numerosi ufficiali. Sull'incrociatore, che aveva inalberate le insegne di comando, si teneva senza dubbio consiglio. Alle 10 le navi e i prahos, sempre schierati in ordine di battaglia, muovevano verso la baia. «Tigri di Monprachem!» gridò Sandokan, che si teneva ritto sul gran ridotto centrale dietro un cannone da 24. «Rammentatevi che difendete la perla di Labuan, e quegli uomini là che vengono ad assalirci sono coloro che assassinarono sulle coste di Labuan i nostri compagni. Vendetta! Sangue!» urlarono i pirati. Un colpo di cannone partì in quel momento dalla cannoniera che da 2 giorni spiava l'isola e per un caso strano la palla abbatté la bandiera della pirateria che sventolava sul bastione centrale. Sandokan sussultò e sul suo viso si dipinse un vivo dolore. «Vincerai, oh flotta nemica!» esclamò con voce triste. «Il cuore me lo dice!» La flotta si avvicinava sempre, mantenendosi su una linea il cui centro era occupato dagli incrociatori e le ali dai prahos del sultano di Varauni. Sandokan lasciò che si avvicinasse sino a 1000 passi, poi alzando la scimitarra, tuonò: «Ai nostri pezzi, tigrotti! Non vi trattengo più! Sfattatemi le mani, bastioni, i terrapieni! Fuoco!» Al comando della tigre, i ridotti, i bastioni, i terrapieni avvamparono su tutta la linea, formando una sola detonazione capace di essere udita fino alle Romades. Sembrò che l'intero villaggio saltasse in aria e la terra fremette fino al mare. Nubi densissime di fumo avvolsero le batterie, ingigantendo sotto nuovi colpi che si succedevano furiosamente, distendendosi a destra e a sinistra, dove tiravano le spingarde. La squadra, quantunque assai maltrattata da quella formidabile scarica, non stette molto a rispondere. Gli incrociatori, le corvette, le cannoniere e i praos si coprirono di fumo, tempestando le opere di difesa con palle e granate, mentre un gran numero di abili bersaglieri apriva un vivo fuoco di moschetteria che ne riusciva inefficace contro i bastioni, molestava e non poco gli artiglieri di Montprachem. Non si perdeva colpo, né da una parte né dall'altra. Si gareggiava di celerità e di precisione, risoluti di sterminarsi da lontano prima e poi da vicino. La flotta aveva la supremazia sulle bocche da fuoco e degli uomini e aveva il vantaggio di muoversi e di isolarsi dividendo i fuochi del nemico, ma con tutto ciò non guadagnava. Era bello vedere un pugno di prodi che avvampava da tutti i lati rispondendo colpo per colpo, vomitando torrenti di palle e di granate e uragani di mitraglia, fracassando i fianchi dei navigli, massacrando le manovre e sventrando gli equipaggi. Aveva ferro per tutti, ruggiva più forte di tutti i cannoni della flotta, puniva i bravacci che venivano a sfidarlo e a poche centinaia di metri dalle formidabili coste faceva indietreggiare i più audaci che cercavano di sbarcare i soldati e per 3 miglia faceva saltare le acque del mare. Sandokan, in mezzo alle sue valorose bande, con gli occhi in fiamme, ritto dietro un grosso cannone da 24 che scatenava dalla sua fumigante gola enormi proiettili, tuonava sempre: «Fuoco, miei prodi, spazzatemi il mare, sventratemi queste navi che vengono per rapire la nostra regina!» La voce non andava perduta. I pirati, conservando un ammirabile sangue freddo fra quella fitta pioggia di palle che sbranava le palizzate, che forava i terrapieni, che sfasciava i bastioni, puntavano intrepidamente le artiglierie, incoraggiandosi con clamori tremendi. Un prao del sultano fu incendiato e fatto saltare, mentre cercava con una insolente bravata di approdare ai piedi della grande rupe. I suoi rottami giunsero fino alle prime palizzate del villaggio e i 7 od 8 uomini scampati all'esplosione furono fulminati da un nembo di mitraglia. Una cannoniera spagnola, che cercava di avvicinarsi per sbarcare i suoi uomini, fu completamente disalberata e venne ad arenarsi dinanzi al villaggio, essendogli scoppiata la macchina. Neppure uno dei suoi uomini si salvò. «Venite a sbarcare, tuonò Sandokan, venite a misurarvi con le tigri di Montprachem, se osate. Voi siete fanciulli e noi giganti!» Era chiaro che finché i bastioni tenevano duro e le polveri non venivano a mancare, nessuna nave sarebbe riuscita ad avvicinarsi alle coste della terribile isola. Disgraziatamente per i pirati, verso le 6 pomeridiane, quando già la flotta orribilmente malmenata stava per ritirarsi, giunse nelle acque dell'isola un inaspettato soccorso, che fu accolto con strepitosi urrà da parte degli equipaggi. Erano altri 2 incrociatori inglesi e una grossa corvetta olandese, seguiti a breve distanza da un brigantino a vela, ma munito di numerose artiglierie. Sandokan e Yanez, nel vedere quei nuovi nemici, impallidirono. Compresero ormai che la caduta della rocca era questione di ore, pure non si perdettero d'animo, e volsero parte dei loro cannoni contro quei nuovi navigli. La squadra così rinforzata riprese nuova lena avvicinandosi alla piazza, bandendo furiosamente le opere di difesa già gravemente danneggiate. Le granate cadevano a centinaia dinanzi ai terrapieni, ai bastioni, ai ridotti e sul villaggio, provocando violente esplosioni che diroccavano le opere, frantumavano le palizzate, introducendosi attraverso alle feritoie. In capo ad un'ora la prima linea di bastioni non era più che un ammasso di rovine. 16 cannoni erano ridotti inservibili e 12 di spingarde giacevano fra le macerie e fra un mucchio di cadaveri. Sandokan tentò un ultimo colpo, drizzò il fuoco dei suoi cannoni sulla nave comandante, lasciando alle spingarde di rispondere al fuoco degli altri navigli. Per 20 minuti l'incrociatore resistette a quella pioggia di proiettili che lo attraversavano da parte a parte, che gli frantumavano le manovre e gli uccidevano l'equipaggio. Ma una granata da 21 kg lanciatagli da girobatol con un mortaio gli aprì a prua una falla enorme. Il legno si inclinò su di un fianco, affondando rapidamente. L'attenzione delle altre navi si rivolse a salvare i naufraghi e numerose imbarcazioni solcarono i flutti, ma ben pochi scamparono alla mitraglia dei pirati. In 3 minuti l'incrociatore affondò, trascinando secco gli uomini che ancora restavano in coperta. La squadra per alcuni minuti sospese il fuoco, ma poi lo riprese con maggior forza e si andò fino a 400 metri dall'isola. Le batterie di destra e di sinistra, oppresse dal fuoco, furono ridotte in silenzio in capo a un'ora e i pirati furono costretti a ritirarsi dietro la seconda linea dei bastioni e poi dietro alla terza, che era già mezzo rovinata. In piedi e ancora in buono stato non rimaneva che il grande ridotto centrale, il meglio armato e il più robusto. Sandokan non si stancava di incoraggiare i suoi uomini, ma prevedeva che il momento della ritirata non era lontano. Mezz'ora dopo, una polveriera salta con terribile violenza, sconquassando le cadenti trincee, seppellendo fra le macerie 12 pirati e 20 indigeni. Fu tentato un altro sforzo per arrestare la marcia del nemico, concentrando il fuoco su un altro incrociatore, ma i cannoni erano troppo pochi, molti essendo stati imbroccati o smontati. Alle 7:10 anche il grande ridotto franava, seppellendo parecchi uomini e le più grosse artiglierie. Sandokan, gridò Yanez precipitandosi verso il pirata che stava puntando il suo cannone. La partita è perduta. È vero, rispose la tigre con voce soffocata. Comanda la ritirata o sarà troppo tardi. Sandokan lanciò uno sguardo disperato sulle rovine in mezzo alle quali solo 16 cannoni e 20 spingardi ancora tuonavano e un altro sulla squadra che stava calando in mare le imbarcazioni per gli uomini da sbarco. Un prao aveva già gettato l'ancora ai piedi della grande rupe e i suoi uomini si preparavano a prendere posizione. La partita era irreparabilmente perduta. Fra pochi minuti gli assalitori, 30 o 40 volte più numerosi, dovevano sbarcare per attaccare le cadenti trincee alla baionetta e distruggere gli ultimi difensori. Un ritardo di pochi momenti poteva diventare funesto e compromettere la fuga verso le coste occidentali. Sandokan raccolse tutte le forze per pronunciare quella parola già mai uscita dalle sue labbra e comandò la ritirata. Nel momento che i tigrotti della perduta Momprachem, con le lacrime agli occhi, il cuore straziato, si salvavano nei boschi e gli indigeni fuggivano in tutte le direzioni, il nemico sbarcava irrompendo furiosamente con le baionette calate contro le trincee dietro le quali credeva di trovare ancora i difensori. La stella di Momprachem si era estinta per sempre.